c'è Tony Servillo proprio qui, guarda. Eccolo qua. Eccolo. Premiato miglior attore Festival del Film di Roma. Com'è il film? Allora, ripetiamo, diciamo. Allora, non diciamo è bello. Subito. No, diciamo subito. Io sono uno stipendiato del Festival del Film di Roma. Lavoro. Ma che vuol dire? Io lavoro per il festival. Devi dire che è brutto. Con tanto di contratto quest'anno. Con tanto di contratto. Se è brutto, devi dire che è brutto. È un capolavoro. Ma va, se ne va, dai. Allora, Servillo è molto bravo in questo film. Come sempre gli accade. E va bene, è un bravo attore. Il film si chiama Una vita tranquilla. È il nuovo film di Guido Cupellini. E esce in sala, vi dico anche quando. Oggi. Esce in sala oggi, quindi potreste andarlo a vedere anche questa sera. Andate a vedere Servillo in questa storia tipica. Una storia tipica. Un uomo. Un uomo italiano vive in Germania, fa il cuoco in Germania con una famiglia tedesca che si è fatto lì, si è fatto, cioè, ha una moglie e ha un figlio. E ad un certo punto arrivano dei napoletani. Lui si sente che è napoletano, questo cuoco tedesco che è Tony Servillo. Arrivano questi ragazzi dei napoletani al suo albergo. Lui si preoccupa molto. Si capisce che già li conosce e comincia a saltare fuori un passato torbido, molto torbido. Molto torbido. Che torna a bussare alla porta. E insomma, sì, Servillo è molto molto bravo. E come vediamo, come si può vedere, ha vinto pure il premio miglior attore al Festival del Film di Roma, uno dei migliori festival della storia dei festival. Che ballista che Festival sei. Of Festivals. No, però posso dire, questo lo dico, è un dato ufficiale. Quest'anno record di presenze, biglietti staccati e giornalisti accreditati. Tutto perché c'eri tu. Esatto, se l'hai detto tu io non l'avrei mai detto da solo. Però forse, insomma, vabbè, ma lasciamo stare. Vabbè, insomma, com'è andato poi alla fine questo festival? Sono stati bei film. Allora, sono stati dei film bellissimi. A parte che i film erano tutti belli. In particolare poi entra anche la soggettività dell'uomo. A me in particolare sono piaciuti moltissimo Animal Kingdom, che è un film che è uscito nei cinema la settimana scorsa, quindi potete andarlo a vedere. Animal Kingdom è un film australiano che sembra girato da Martin Scorsese. Molto bello, storia di piccola criminalità, famiglie criminali che tentano di mantenere il loro equilibrio. Molto molto molto duro. Il titolo Animal Kingdom vuol dire regno animale. Fa un po' riferimento al fatto che poi questi criminali mafiosetti si comportino come la legge della giungla, la sopravvivenza del più forte. Ed è un film veramente figo, vi ripeto, sembra quei bravi ragazzi australiani. E questo mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un sacco il film francese che si chiama L'homme qui voulait vivre sa vie, cioè l'uomo che voleva vivere la sua vita, con Romain Duris, grandissimo nuovo attore francese, cioè, emerso da una decina d'anni, bravissimo. Ed è un film la cui trama è irraccontabile, perché sennò vi rovino troppe cose. Però è uno di quei film in cui a un certo punto succede una tragedia e si pensa, oh mio Dio, che tragedia. Poi si capisce che questa tragedia in realtà è una grande opportunità per il protagonista. Quando questa opportunità si concretizza, di nuovo si capisce che in realtà questa è una tragedia. Ed è bellissimo come ti fa vedere che le svolte nella vita, le differenti pieghe che puoi prendere, cose che apparentemente sembrano belle, in realtà riservano sempre un altro lato. È un film dove succedono un sacco di cose, ma ancora non si sa quando e se uscirà in Italia. Però è un film che, diciamo, ha ben figurato. Poi si è visto The Social Network. The Social Network è il film su Facebook, per dirlo in due parole, che esce settimana prossima. È un film di David Fincher. David Fincher, regista di Seven, Fight Club, The Game, il Benjamin Button. Ha fatto questo film, che è tratto dal libro Miliardari per caso, che racconta la storia di Facebook, cioè come è nato. E la storia di Facebook è interessante perché è la storia di un'incredibile battaglia legale. Ve la faccio molto breve. Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, era stato contattato da due studenti di Harvard, due molto ricchi, molto benestanti, molto high level, diciamo, che gli dicono: abbiamo un'idea, tu facci il codice, programmacela, realizzacela. Quest'idea che avevano questi qui era molto molto molto molto simile a Facebook, molto. Zuckerberg ne capisce subito il potenziale, la cambia, la migliora, aggiunge due o tre cose importanti, insomma la rende quello che oggi è Facebook. A loro non dice niente, se lo fa per sé, quindi in questo senso gli frega l'idea. e diventa il più giovane miliardario della storia. Beato lui, esatto. Sai quanti impianti hi-fi si potrebbe fare? Tra l'altro devo rispondere ad un ascoltatore che mi chiede dov'era? Avrei una curiosità, quanto può costare un impianto di media qualità per i vinili? Sono completamente ignorante in merito, ma molto curioso. Grazie Lorenzo. Dipende sempre da quanto hai deciso di investire su un impianto. 1000 euro, 300 euro, 10.000 euro, dipende. Non c'è limite, non c'è limite. Però per iniziare ad ascoltare decentemente, con un millino te la cavi. Millino, un millino e due te la cavi. Poi, insomma, puoi anche scendere, insomma, ci sono tantissime possibilità, apparecchi usati, apparecchi valvolari di piccola potenza, di 10 più 10 watt, di fabbricazione cinese ma customizzati qua in Italia, ma insomma ce ne sono davvero tante. Se veramente ti interessa, mandami una mail e ti do qualche indirizzo web. Prego. Dicevo, film che sono usciti nel frattempo al cinema e che quindi ora sono nelle sale e uno si può andare a vedere, visto che nella settimana che sì, è passata... Sì, ma i gadget... Te l'ho portato. Me ne hai portato uno. E vabbè, ma ti ho portato il più grosso. No, cioè, anche il più questo. Grosso, mi hai portato un cappello. Cioè... Che cappello? Ho capito, sarà pure bello, però io volevo altri gadget, cose... Sai... Non è che ci fossimo molto altro, eh. Ma no. Insomma, no. Qualche DVD, qualche CD di colonna sonora... Ci stavano, non c'erano. Ci stavano, no. Ma non c'erano bancarelle, cose? Un mercatino? Una cosa... Ti ho raffato il gadget più grosso, scusa. Vabbè, cazzo. Uno straordinario borsalino BNL. Vabbè. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Allora, però, che aria si respirava lì? Innanzitutto, grazie a Dio, è stato brutto tempo nel ponte, quindi la gente è rimasta a Roma è rimasta e quindi è venuta al festival, grazie al cielo, che si temeva molto che il ponte avrebbe rovinato tutto. L'aria che si respirava era, come sempre, purtroppo, come al festival di Roma, c'è sempre un po' un'aria di disfatta, la gente sta sempre lì come per dire sì vabbè ma... Quando poi in realtà... Ma non sono entusiasti, no, ma esatto. Parli del pubblico tu? Ma tutti, un po' tutti, pubblico e lavoratore. Non c'è mai nessuno entusiasta. Poi gli chiedi, ma com'erano i film? Ah, bello! Cioè, ma perché anche quest'aria? Allora c'è quest'aria di... Un'aria di sufficienza. Sufficienza, esatto. Un po' di puzza sotto al naso. Ma sì. Andiamo a vedere sta cosa, va. Sì, vediamo un po' che è. Anche ma... se, ma... Che dici, ci andiamo? T'avemmo portato Bruce Springsteen. No, è stato a casa mia. Poi, esatto. Tra l'altro la sera di Halloween. Ci hai concesso. In giro con la smart, a destra e a manca. Vestito con le orecchie finte. No, giravamo. Volevo andare al circo degli artisti, non siamo riusciti a parcheggiare, ma neanche ad arrivarci, c'era il delirio. Vabbè, se non l'avessero fatto entrare. Ti abbiamo portato Bruce Springsteen. C'era Martin Scorsese. È stato a casa mia a girare alcune immagini, a vedere Killer Pussy. L'hai visto mai tu? Pensavo omicidio sull'autostrada. No, Killer Pussy l'hai visto? Te lo sei visto? Quello è una cosa che ho consigliato io ad Alò, sì. Capolavoro assoluto. Abbiamo portato, chi altro ci stava? Non mi mette più nessuno. John Landis, abbiamo portato John Landis. C'era Alexander Rockwell, c'erano Silvio Orlando e Margherita Bui, il documentario su Guadagnazzi fatto dalla FIA, c'era sto mondo e quell'altro. È arrivata anche la protesta, perché poi ci vengono a protestare. Fanno benissimo, però, cioè, come dire, vai a protestare in un luogo importante, no? Se no non ti vede nessuno. Quindi è importante, dice. È una passerella importante. Esatto. Un parterre de roi. Esatto, c'è stata la protesta dei 100 autori per Italia la cultura, la situazione della Casa del Cinema e delle Cinecittà e tutto quanto. Come dicevo, è stato un festival che è andato molto bene, siamo molto lieti. Vabbè, adesso perché... lo so, è trionfalismo, no, però devo dire, i numeri mi danno ragione. Vabbè. No, perché i giornali oggi hanno titolato disastro Festival di Roma. Ma veramente? Giuro. E perché? Ti giuro, non lo so, è andato tutto bene, i dati sono tutti positivi, sono venuti grossi nomi, era tutto, non si capisce perché disastro. E perché disastro? Guarda, ti giuro, non lo so, io ho letto tutti i titoli, alla rassegna. Vabbè, ma i titoli, cioè, all'interno avranno spiegato. Sì, ma io non ho avuto il tempo di leggere, c'avevo da fare. Ah beh, no, sicuramente saranno stati dei motivi ben precisi che tu naturalmente vuoi occultare, occultare, esatto, perché sei un prezzolato orrendamente. L'immortale di Jean Reno. Allora, anzi, con Jean Reno. L'immortale è al cinema da, voglio dare un attimo un dato da preciso, 5 novembre. Esatto, da oggi. L'immortale a me non è piaciuto. Allora, diciamo subito, è un film che si presenta benissimo, perché c'è Jean Reno sarebbe Leon. C'è Jean Reno che è un mafioso a cui gli uccidono la famiglia e lui parte e si deve vendicare. Fa una strage. Però il film poi non ti prende, devo dire, a me un po' mi ha deluso questo film. Sono quei film francesi che stentano a ingranare, non, insomma, alla fine sono rimasto con la mano in bocca, e se dovessi proprio consigliare, non lo consiglierei, proprio uno deve veramente, non mi ha soddisfatto per nulla. Però sempre oggi esce, vediamo un po' di simile, no, questo è l'unico film di questa categoria che esce, perché poi l'altro ad uscire, abbiamo detto, è quello di Tony Servillo, che ha vinto il miglior attore del Festival di Roma, e quello del cuoco in che si ritira una vita in Germania, ma la sua vecchia vita torna a batter cassa. Poi escono due commedie, anzi tre commedie. Una è A cena con un cretino, che è il remake americano di La cena dei cretini. L'hanno rifatto, non sono riuscito a vederlo, è con Steve Carell, e quindi non so dire come sia, ma solitamente questi remake americani non è che siano pazzeschi. Poi fanno Potiche, La bella statuina, film di François Ozon, che abbiamo visto a Venezia e ci è piaciuto un sacco. François Ozon è bravissimo. Potiche ci stanno sia Gérard Depardieu, che fa 100 film l'anno, che Catherine Deneuve. Com'è quel film? È veramente divertente. Ma il veramente. Mammut? No, così. No, Mammut esce, ve ne parliamo, perché Mammut esce, è uscito settimana scorsa, infatti mo ne parlo, che Mammut è straordinario. Vale la pena, perché io volevo andare. Divertentissimo, stranissimo, originalissimo, molto forte. Invece volevo chiederti, ma Machete non esce più? Scomparso dalle Machete. Scene. Machete. Controllo. Ma no, non ma io so che è stato acquistato, qui deve uscire. Vediamo se c'è anche già una data di uscita. Fino a dicembre non esce. Roba da matti. Sì, confermo che non c'è una data d'uscita prevista. Roba da matti. Senti, la cosa, devi commentarmi questa cosa. Benvenuti al Sud è il film che ha incassato di più. Sì, ma non una solo, cosa è pazzesca. Successa, è successa una cosa pazzesca. Stranissima è successa, che non capita mai, per dire quanto il botto che ha fatto Benvenuti al Sud. Solitamente, da che mondo è mondo, un film esce al cinema, finisce primo in classifica, grandi incassi, e da quel momento in poi scendono gli incassi, come è normale. Di settimana in settimana incassa sempre meno, come è normale. Benvenuti al Sud, la seconda settimana di permanenza, ha fatto più della prima, una cosa che io non vedevo da una vita. C'è stato il passaparola, evidentemente. Esatto. Perché il film è molto molto molto carino, è veramente divertente. È un film che funziona, cioè non c'è niente da dire, funziona veramente. Funzionava il francese, perché è il remake del film francese Bienvenue chez les Ch'tis, che da noi era uscito col titolo Giù al Nord, e che in Francia è il campione di incassi della storia del cinema francese. Ma veramente, sul serio, è il film che ha incassato di più in tutta la storia del cinema francese. Beh, da noi la vita è bella, cioè ognuno, come dire, ha il suo. Anzi no, da noi è Avatar, perché ha fatto di più alla fine Avatar della vita. No, ma di film italiani qual è quello che è incassato? La vita è bella. La vita è bella. Sì, sicuramente. E insomma, benvenuti. Ma questo sarà il secondo, perché 23 milioni di euro. Non lo so, mi devo informare se è il secondo, perché c'è pure il postino, credo, che si sta messo molto bene. Comunque, Benvenuti al Sud, film con Claudio Blisio e Alessandro Siani, che probabilmente avrete visto tutti, visto i soldi che ha fatto. È un format che funziona, questo del quello del nord che va al sud, o quello del sud che va al nord, a seconda che in Francia è il contrario che da adesso noi. Adesso faranno subito Benvenuti al Nord. vedrai te se non lo fa. Gli ho dato un'idea. C'hai l'occhio del produttore. Gli ho dato un'idea. Qua, l'occhio lungo. Mannaggia del produttore. Mannaggia i pesci rossi. E quindi c'è un messaggio Skype che diceva: invece Giù al Nord non l'ha visto nessuno. È vero, perché Giù al Nord, diciamo che funzionava, ed è carinissimo, è molto carino, ma in italiano funzionava un po' peggio, perché è molto umorismo verbale francese, per cui alcune cose per noi sono un pochino più difficili da cogliere, quello francese chiaramente. E invece quando l'hanno fatto in italiano con Bisio e Siani funziona di più, perché poi loro ci mettono il loro umorismo, le loro gag, per cui va tantissimo. E solo questa settimana è stato superato da Maschi contro Femmine, che è il nuovo film di come fa a non venirmi il nome, di Fausto Brizzi. Guarda, questo, ecco, Maschi contro Femmine è un caso che andrebbe studiato alle università di cinema, perché è un'idea. Allora, tutto lo dico subito: Maschi contro Femmine a me non è piaciuto come film, è un film che non mi è piaciuto, però non posso che provare stima per l'idea produttiva, la visione produttiva e commerciale di quest'autore, che è Fausto Brizzi. Allora, lui ha fatto questo film che racconta varie storie d'amore che contrappongono l'universo maschile e l'universo femminile. Ne ha fatti due, lui ha fatto effettivamente due film, che girati insieme chiaramente, che ha chiamato Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, che uscirà tra 3 mesi. In questo qui ci sono 3 storie fondamentali, ci stanno Fabio De Luigi, ci sta Paola Cortellesi, ci sta Carla Signori, questi attori proprio, per dire, c'erano questi qua, e ci stanno tutti altri attori tipo Claudio Bisio, che sono comprimari, cioè hanno parti minori. Nel prossimo, Femmine contro Maschi, quelli che erano comprimari hanno la parte grossa e quelli che avevano la parte grossa in questa hanno parti piccole, così si risparmia ancora di più. Cioè effettivamente sono film che hanno lo stesso cast, benché poi il cast sia diverso, perché funziona il film? Funziona benissimo. Ha fatto Baccini gli ha fatto la canzone, lui ha girato anche il videoclip della canzone, il videoclip della canzone contiene le scene del film, ha scritto anche un libro dal film, il libro vende in libreria, ha fatto una storia per Topolino tratta dal film, e anche quello. Ma di che parla questo film? Storie di uomini e di donne, ci sta, non so, ci sta quello, il grande donnaiolo che non riesce, che si innamora in realtà della sua vicina di casa, che invece è l'unica che non ci sta, ci sta il timidone che non riesce a svelare il proprio amore per la collega di lavoro. Cose banali. Esatto, storie normali, che un po' l'unica, ho detto, a me non è piaciuto, però l'unica cosa che le fa un po' funzionare è che poi i vari Fabio De Luigi, Paola Cortellesi si scrivono da soli parte delle loro parti, delle loro battute, per cui funzionano in un certo senso, perché poi sono bravi comici, quindi quello è. Però non c'è più quell'umorismo di sceneggiatura, di montaggio, quell'umorismo un pochino più raffinato che Fausto Brizzi aveva mostrato con Notte prima degli esami, che invece funzionava molto di più. Io ho un sacco di messaggi. Questo è grandissimo, ma la traduzione in francese dell'immortale è per caso l'immorté, grandissimo. A proposito di vinili, piatto Torrens TD150 è buono come inizio? Sì, sì, io preferirei un... Sì, ah no, 150 sì, sì, non è niente male, come no? Voglia, avevo capito Technics, comunque sì. Allora, poi mi chiedono, ma Mammut che senso vuole avere? Però mi è piaciuto, Francesco. Allora, sono contento innanzitutto che ti è piaciuto, perché è molto molto bello. E il senso è questa storia di questa persona strana, diversa, che ha avuto, il protagonista ha avuto un incidente, per cui è un po' scemo, e si muove in un universo di persone assurde. Per cui c'è questa storia di incredibile diversità, di persone che sono totalmente lontane anni luce da quelli che siamo abituati a vedere, specialmente abituati a vedere nei film, che cercano come incredibilmente di lottare per una vita normale in una società che li respinge, perché sono strani, sono diversi, non sono integrati perfettamente. Tutto questo con grande comicità e con una grandissima presenza fisica, proprio, che è quella di Gerard Depardieu, che secondo me è un attore fantastico, con un corpo sempre più gonfio, sempre più immenso, ha delle mani pazzesche, ma grandissimo, grandissimo davvero, perché pochi come lui riescono a riempire un'inquadratura in quella maniera, non solo fisicamente perché è grosso, ma anche come presenza carismatica. E poi mi chiedono com'è L'Illusionista, il cartone francese di Tati, in realtà è su Tati. Allora, L'Illusionista è il nuovo cartone di Sylvain Chomet. Sylvain Chomet era quello che aveva fatto Appuntamento a Belleville, quel cartone francese di qualche anno fa, tutto muto, ambientato appunto in Francia, su quel ciclista che viveva con quelle cantanti. Insomma, era un cartone che ha riscosso tantissimo successo e tutti quelli che l'hanno visto sono impazziti e non aspettavano con grande ardore quest'altra produzione. Allora, cos'è L'Illusionista? Innanzitutto, L'Illusionista è una sceneggiatura di Jacques Tati, che Jacques Tati aveva scritto ma non aveva mai realizzato, un po' perché se ne vergognava, un po' perché pensava di non essere adatto, insomma una serie di cose per cui stava lì nel cassetto, e la figlia di Jacques Tati l'ha portata a Sylvain Chomet, al realizzatore di questi cartoni, dicendo che secondo lei solo lui poteva farla. Lui l'ha fatta, chiaramente, ha realizzato L'Illusionista, e infatti il protagonista del film, il personaggio principale, è disegnato per somigliare a Jacques Tati. Si muove uguale, è praticamente lui. Si chiama anche nella stessa maniera Tati Chef, perché Jacques Tati è un nome d'arte, in realtà lui si chiama Tati Chef, era russo, di origini russe. E che storia è? La storia di un mago, appunto, l'illusionista del titolo, che è un illusionista veramente vecchio stampo, con dei trucchi anche un po' passati che non impressionano nessuno, e che si muove in un mondo nel quale quel tipo di spettacolo che fa lui, quelle illusioni da avanspettacolo, da teatro, stanno lentamente morendo, nessuno se le fila più, e finisce a fare questi spettacoli in Scozia con poco successo, chiaramente poi conosce delle persone, tutta una storia in mezzo, con quel tocco molto delicato che avevamo già visto in Appuntamento a Belleville e che era poi lo stesso dei film di Tati. Secondo me però questo film, non, cioè per carità è un bel film, ma non riesce ad essere veramente quello che vorrebbe essere, cioè un canto di un mondo che non esiste più, un'infinita delicatezza, raccontare i sentimenti quasi senza parlare, con pochissimi accenni. Secondo me alla fine si perde appresso a se stesso, vuole troppo essere delicato, troppo essere alto, e perde di vista il vero obiettivo. Però vabbè, chiaramente è un film... Butto telegrafico. Butto è un documentario che è passato al Festival del Film di Roma e che parla, appunto, come dice la parola stessa, della vita dell'ex primo ministro pakistano Benazir Butto. Un documentario, essendo passato al Festival del Film di Roma, è bellissimo. Ma in particolare di questo lo dico senza averlo visto, perché non l'ho visto, ma sono sicuro che, essendo del Festival del Film, è straordinario. Unstoppable. Ma sto poi esce settimana prossima, fermi. No. Quindi però attenzione, ho autorizzato a non averlo tra visto. Tra due settimane esce Harry Potter, Lo vedo lunedì. Ah sì? Attenzione. No, lunedì prossimo, non lunedì. A che ora? Lunedì prossimo alle 21. Attenzione. Vedi, potrei. Gna fai? Potrei mollare qui in mezz'ora prima, volare dove lo fanno? Al Moderno, a Piazza della Repubblica. Perfetto. Parcheggio dritto, sgonfio la macchina. Invece, grande notizia per tutti gli appassionati, ve lo dico fin da ora: settimana prossima, finalmente, dopo solamente 10, quasi 20 anni, esce al cinema Porco Rosso. Porco Rosso, grandissimo capolavoro di Hayao Miyazaki, adesso vi dico anche l'anno esatto, grandissimo del 1992. Che finalmente esce al cinema in Italia, perché non era mai uscito da noi, benché sia un film ambientato in Italia, la storia di un aviatore italiano, Porco Rosso. Tant'è che Porco Rosso è anche il titolo giapponese. Ma è un cartone o un film? È un cartone di Miyazaki. Miyazaki è quello della Città Incantata, la Principessa Mononoke. Un film, un cartone oppure un lungometraggio, dovevo dire. Che ignorante. Tanta ignoranza, io sto ancora qua. Perdere. Perché ringraziamo la Lucky Red, la distribuzione Lucky Red, perché ha deciso di acquistare tutto il catalogo Miyazaki e piano piano rilasciarlo, rimetterlo in sala. Per cui riempite le avvalanga, perché Porco Rosso è tra i più belli in assoluto. Racconta la bellissima storia di questo aviatore, che in un mondo normale di esseri umani lui è un maiale aviatore, perché ha subito una maledizione, non si sa come, non si sa quando, ed è maiale. Però la cosa divertente è che nessuno si stupisce che lui ha le fattezze di un maiale. Ha una storia d'amore bellissima con una donna che si capisce che sono stati innamorati, adesso non più, e si trova a doversi confrontare con l'Italia fascista. Che dire di più? Un film di Miyazaki è assolutamente consigliabile a tutti quanti. Esce settimana prossima. Beh, andiamo avanti, prego. Andiamo avanti. Sempre questa settimana esce un'altra commedia molto divertente che a me è piaciuta un sacco. Guarda, devo dire veramente. Si chiama Due cuori e una provetta. Titolo terribile, perché sono quei titoli italiani che veramente. Però ci sono Jennifer Aniston, che è la regina delle commedie sentimentali, e Jason Bateman, che a me piace abbastanza. Racconta una storia abbastanza canonica. Loro due sono due amici a New York. Lei è una donna ormai, insomma, arrivata più o meno vicina ai 40, vuole avere un figlio anche se non ha un marito, dunque opta per l'inseminazione artificiale. Fanno come un party la sera in cui il donatore di seme viene a casa di lei a fare la donazione. In quel party lui, il protagonista, che è l'amico, si ubriaca a livelli epici, totalmente distrutto dall'alcol, sostituisce il seme del donatore con il proprio. 9 anni dopo, lui non ricorda niente perché era completamente ubriaco, 9 anni dopo si rincontrano e comincia, lui vede questo bambino e piano piano comincia a capire che forse gli somiglia un po' tanto questo bambino. Ma lui è consapevole di quello che ha fatto? No, non se lo ricorda perché era ubriaco pisto. Non vi ho anticipato nulla, nel film lo vedete che lui è ubriaco e sostituisce il seme, non è il colpo di scena finale. Ma perché lo sostituisce così? Perché sotto sotto era sempre stato innamorato, tutto gli rodeva, che poi era arrivato questo, tutto figo, io sono il donatore, bello, palestrato, grosso, lui invece è una persona normale, e allora fa questa cosa. Devil settimana ancora che viene, non ma ancora. Ma cos'è sto film? È un film che è andato discretamente in America. Ha avuto un thriller di gente non nota, dei fratelli Dowdle, che non sono molto noti. E è andato abbastanza bene in America, per cui sono molto curioso di vedere che sia. Ma appunto esce settimana prossima. Questa settimana abbiamo detto esce un film che è stato al Festival di Roma e che quindi è fantastico. Che si chiama Last Night, film con Keira Knightley e Eva Mendes. C'era. Abbiamo portato pure Eva Mendes. Pure Eva Mendes c'era. Lo so. Fatto un macello. Ma è stata da te, perché l'ho vista stanca. Cioè, stava stanchissima, come se la sera prima avesse fatto chissà che cosa. Io non capivo. Mi sono fatto vagamente l'idea che fosse stata da te, ma non ero sicurissimo. Sì, tutta la sera è stata una mattina. Ha fatto un macello. Al bar sotto casa tutti gli dicono: ma chi è qui? Camminava a fatica, avevamo da reggere in due. Proprio strana, proprio, mamma. Vabbè. Insomma, Last Night racconta di questa notte in cui la coppia protagonista sono separati, perché in quel momento uno sta da una parte e uno sta da un'altra, e hanno delle avverture extraconiugali che alcune andranno bene, alcune andranno male, per cui è un po' un film sul tradire e non tradire, chi ha tradito, chi no. Posso dire che tra il pubblico dei festivalieri, quello che ho notato che è piaciuto molto più alle signorine che ai signorini. No, io sono rapito da questa notizia. Attenzione, è arrivato. Allora, andiamo. Vediamo un po'. Cioè, rinasce James Bond, comunicata la data di uscita. Guarda, sparano grossa. E quando sarebbe? Novembre 2012? Attenzione. Tra due anni. In seria. Si sono presi un po' di tempo. Un pochetto. Possiamo dire così, ero bravo pure io. L'impegno è di investire 125 milioni di dollari nei prossimi 15 settimane. 40 milioni di dollari andranno a The Hobbit. E anche il mondo verrà finanziato, anche se perché la MGM era fallita, quindi e l'ha presa la Spyglass Entertainment, sì, che è una casa molto piccola, però mappa e ha tutti questi danari, infatti quindi farà anche The Hobbit, finalmente faranno anche The Hobbit. Esatto, meno male. Ancora 7 minuti, Vasquez. Allora, abbiamo detto questo, abbiamo detto quest'altro, quelli di questa settimana non li abbiamo esauriti. Vediamo un po', al momento al cinema, settimana scorsa che non abbiamo parlato, è uscito un film che non vi consiglio, ecco, una cosa che potete evitare, ed è Salt con Angelina Jolie, film di agenti segreti, ma di quelli talmente esagerati, che alla fine non ci credete più. E comunque io ho avuto modo di vederlo, sono andato a vederlo, però è molta azione, molto quello divertente, è uno sparato per chi vuole passare due però ore. Alla fine veramente abbiamo sì, esagerato. È di più. E invece, per gli amanti di queste cose, è uscito al cinema Il Regno di Gaul, Leggenda dei Guardiani, che è un film di Zack Snyder. Zack Snyder, regista di 300 e Watchmen. Ed è un film stranissimo per Zack Snyder, perché è un film in 3D che parla di Goofy. È un film fantasy sui Goofy. Sono Goofy in CG, cioè in computer grafica, animazione computerizzata tipo i cartoni Pixar. Sono molto verosimili, non cartoneschi, ma molto sembrano veri. Sembra una cosa del National Geographic. Ed è un film molto classico americano, molto manicheo, con i buoni tutti da una parte e i cattivi tutti dall'altra. Il percorso dell'eroe che tra mille difficoltà riuscirà a emergere alla fine, la lotta del bene contro il male, però è molto ben fatto nonostante l'apparente banalità del soggetto. Mi ha davvero stupito e soprattutto questi Goofy sono pazzeschi. Bene. Televisione. No, sono reduce dal festival. Sai che il festival è finito oggi, cioè io sono venuto qui dal festival. Ma chi ha vinto poi? Allora, il festival l'ha vinto premio Marco Aurelio della giuria presieduta da Sergio Castellitto, in cui ci stava anche il grandissimo Edgar Wright, regista di Heimat. Premio Marco Aurelio d'oro al miglior film a Kill Me Please di Olias Barco, film che io non ho visto, ma che vedrò domani. Perché c'è anche domani ci stanno, questo può essere interessante per i nostri amici ascoltatori, domani ci stanno le proiezioni dei film premiati. Qui potete acquistare i biglietti per andare a vedere i premiati proprio, così uno si va a vedere direttamente il meglio. Tu quale consigli? Io consiglio questo Kill Me Please, che ha vinto perché mi hanno detto tutti che è molto bello, e tra gli altri premiati. Ma la trama qual è? Questa è un'ottima domanda, mi hai fatto una domanda straordinaria. Ma non roviniamo la trama agli ascoltatori. Vabbè. Ah, non ricordo, è quello con lo humor nero. Sì, è un film tratta un po' il tema dell'eutanasia, ma con molto umorismo caustico, molto umorismo nero. Adesso mi è sovvenuto. Vabbè, altri film da vedere la prossima settimana? Diamo qualche anticipazione. Siamo avanti. Allora, prossima settimana escono, e l'abbiamo detto, Porco Rosso, da vedere. The Social Network, da vedere, perché è un bel film, veramente un film complesso, duro, e vedrete, è il primo a raccontare questo nuovo mondo, un mondo nel quale ciò che accade in rete è importante tanto quanto ciò che accade nella realtà. Esce La Scuola è Finita, film passato al Festival del Film di Roma e quindi straordinario, che racconta della situazione dura delle scuole italiane con Valeria Golino. Ed esce Noi Credevamo è un film che io mi sono perso a Venezia, è il film di Mario Martone sul Risorgimento. L'ho perso a Venezia e andrò a vederlo sicuramente in sala, perché ne stanno parlando tutti molto bene. Pare sia veramente un film poco propagandistico e molto serio sulle radici della nostra nazione, del nostro paese. Non solo radici storiche, ma anche radici politiche e umane. Chi sono le persone che hanno fatto questo paese? Quindi chi sono le persone che ci vivono adesso? Mi scrivono un ascoltatore: Porco Rosso è stupendo. Grandi, grande, bravo. I film francesi, a meno che non siano di Kassovitz e Besson, non li... Ma concordo. Vabbè. Pur essendo io, insomma, non è che sia un francofono. E più che altro esce, e lo vedo in settimana, quindi ne parleremo settimana prossima, il remake americano di Stanno tutti bene, con protagonista Robert De Niro. Stanno tutti bene pure. Come qual è? Cioè, il film ha avuto una gestazione lunghissima, perché se ne parlava, non se ne parlava, la cessione della sceneggiatura e tutto quanto, ma finalmente lo fanno adesso, ed è stato scelto per fare il ruolo che era di Marcello Mastroianni, Robert De Niro. E stanno tutti bene, il film del 90 di Tornatore. Allora, domande risposte telegrafiche. Che ne pensi di A Serbian Film? Guarda, lo devo vedere. È un film che in Italia ancora non è uscito, ma io lo devo scaricare, perché pare un film di una violenza e di un'efferatezza che ne parlano tutti in rete. Allora, una cosa veramente dura scaricare, da guardare. Perché scaricare? A pagamento. Ah, a pagamento. Quindi non è uscito in Italia? Non è uscito in Italia. Beh, sai, questi film molto molto molto violenti è sempre difficile che escano, perché si teme il divieto, e quindi non incassino, eccetera, eccetera. Sapete qualcosa sull'uscita del film di Boris? Ancora niente. So che in lavorazione ci stanno lavorando. Boris, la serie TV. Pensavo di Boris Sollazzo, che è diventato in un delirio. Cineasta. Adesso faccio io i film. No. Tu consiglieresti a chi adora il cinema di rivedere un film come I Colori dell'Anima? Purtroppo I Colori dell'Anima ancora non l'ho visto, mi dispiace. Invece mi chiedono quello dei Gufi, come si chiama e quando esce. È già uscito, già lo trovate nelle sale, si chiama Il Regno di Gahol. Ma è vero che uscirà il cartone del Piccolo Principe? Questa è una notizia che non è ancora giunta alle mie orecchie. Invece devo ringraziare, adesso mi sono ricordato, devo ringraziare due. Stavo 3-4 giorni fa, stavamo al festival, lavoravo al festival, in un incontro, mi sembra che era l'incontro con Silvio Orlando e Margherita Bui. Stavamo lì nel dietro le quinte a attaccare cavi, a fare cose proprio materiali, e stavo parlando con il mio sodale Francesco Alò. A un certo punto, da che stavo parlando con lui, due operatori di non mi ricordo bene che televisione, insomma, due operatori vengono da me e mi fanno: ma che tu parli a Radio Rock? Io ho detto sì, grandi ascoltatori, grandi. E loro mi hanno detto: ti abbiamo riconosciuto dalla risata. Io ho detto: grandi, morta. Possiamo chiudere così? Sono momenti. Possiamo chiudere così? Direi di sì. Grazie a tutti e a tutti, ci vediamo questa sera all'Alfeus, anzi tra poco meno di un'ora, perché insomma l'Alfeus aprirà alle ore 21 per questo gran bel concerto, e poi a seguire la discoteca al piano rialzato, non mancate. Grazie a tutti e a tutti, e ricordate sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai suo. Grazie Vasquez, a venerdì prossimo. Senz'altro. Se tutto va bene, come sempre.